Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera e benvenuti a Rock Wave Live, io mi racconto con Gilles Facchinelli. Questa sera i nostri microfoni e i nostri cursori del mixer non vanno lontano, rimangono nel Veneto, precisamente in provincia di Rovigo, esattamente a Portoviro. Ho l'onore e il piacere di avere come ospite la cantautrice Maria Laura Tessarin. Ciao Maria Laura! Ciao Gilles. Ciao Maria Laura e grazie di essere qui con noi questa sera a Rock Wave Live, io mi racconto. Grazie a te. Allora, iniziamo a conoscerti Maria Laura. Di dove sei? L'abbiamo detto poco fa, di Portoviro, ho detto bene? Esattamente. Se vuoi possiamo dire la tua età? Certamente, ho 35 anni. 35 anni? Però con delle grandissime, ancora grandissime potenzialità per Maria Laura, ma facciamo un passo alla volta e ne parleremo dopo. Tu sei laureata in filosofia, giusto? Sì, mi sono laureata in filosofia all'Università degli Studi di Ferrara con 110 lode, ci tengo particolarmente a dirlo. Ne hai un buon motivo, complimenti veramente Maria Laura. Portoviro, in provincia di Rovigo, parlaci di questo paese. Ma è il paese in cui sono nata, in cui comunque ho frequentato la scuola, in cui ho maturato le mie passioni di cui avremo modo di parlare, no, nel corso della nostra chiacchierata. Sono particolarmente legata a questo territorio perché è un territorio lento, è un territorio che si lascia vivere, si lascia assaporare, ed è un territorio che nonostante alcuni momenti magari anche di noia ti regala tanti momenti di riflessione, ecco, e ci sono particolarmente legata anche perché ho la fortuna di amministrare questo comune come assessore comunale. Tu oltre alla musica hai anche un'altra grande passione che è un po' diciamo la politica, che è un mezzo poi per condividere grandi temi sociali. Appunto tu sei assessore nel tuo paese, ci vuoi raccontare di questa esperienza? Possiamo fare questa piccola parentesi Maria Laura? Ma certamente, molto volentieri. Io amministro questo comune, ho la grande fortuna, no, di amministrare questo comune dal 2014. Mi occupo prevalentemente di politiche di genere, quindi insomma pari opportunità, associazioni, politiche per il superamento dell'handicap e varie deleghe. Lo faccio con molta passione ed è una passione insomma che ormai porto avanti da qualche anno. Io ho iniziato molto, molto giovane a fare politica, mi sono candidata perché ho seguito le orme di mio padre. Mio padre era, dico purtroppo era perché è venuto a mancare nel 2015, mm-hmm. Mio padre era una persona molto conosciuta, molto stimata a Portoviro, una persona comunque con seguito, con tanti amici, con tante persone che lo ascoltavano, che credevano in lui, era un saggio. E io in qualche modo mi sono lasciata un po' trascinare, è una passione che mi è stata trasmessa proprio da lui, infatti quando ho iniziato non è che avessi questa grande vocazione verso il sociale, ma è stato proprio l'amore di mio padre che si è poi tramutato in amore verso la politica. Certo. Mi sono candidata la prima volta a 25 anni, ho iniziato già, perdonami dell'influenza, sì, che ho la voce un po' periodo. Ti sentiamo benissimo Maria Laura. Benissimo, fa piacere. Ti dicevo, ho iniziato appunto a 20 anni a seguire un po' le orme di mio padre. Credo che la prima volta che sono andata a votare io abbia votato proprio per mio padre che si era candidato per le provinciali. Insomma, ho curato qualche campagna elettorale per qualche amica E poi, insomma, a 25 anni ho fatto il grande salto. Mi sono candidata in una lista che purtroppo non ha vinto, ma mi sono fatta ben 5 anni di gavetta come consigliere di opposizione. Appunto, visto che ci sei ormai da tanti anni, vuol dire che sicuramente hai anche operato bene per il tuo paese, no? Soprattutto tu che ti occupi di tematiche sociali, che è un argomento importante per quanto riguarda soprattutto la vita di un piccolo paese, no? Certamente, io ci provo a fare il meglio tutti i giorni. Mio padre mi ha insegnato una cosa: quando alla sera si chiude la porta dell'ufficio, si deve pensare un po', no, tra sé e te e dire: oggi ho fatto, o almeno ho tentato di fare almeno una cosa per i miei concittadini. Diciamo che tutte le sere ci provo a farlo, ecco. Maria Laura, entriamo nell'altra parte del mondo che tu ami, la musica. Io partirei subito facendo ascoltare il tuo ultimo inedito, Le tracce di Lolita. Raccontaci un po' di questa canzone. Ok, permettimi di correggerti, Le trecce di Lolita. Le trecce, scusa, ho detto le tracce, le trecce. Esatto, dei capelli rossi di Lolita. Ti dirò, è un pezzo scritto diversi anni fa, che poi con il mio produttore artistico, che tu conosci bene, Iari Munari, certo, abbiamo pensato di mettere all'opera e di dare un po' un'immagine, no? Adesso come adesso tu sai bene, siamo una società che comunica molto per immagini, una società che ha bisogno di messaggi immediati, no? E quindi qual è il messaggio più immediato di un videoclip? Abbiamo pensato appunto di girare un video di un pezzo in cui noi ci credevamo veramente tanto, ci credevamo perché comunque Le trecce di Lolita è un pezzo che come tematica ha il contrasto alla violenza di genere, in particolare alla violenza sulle bambine. Quindi ho scritto questo pezzo quando ancora non ero assessore alle pari opportunità, ma perché comunque sono temi che ho sempre sentito particolarmente, ecco. Oltre a essere un bel testo, anche un bel arrangiamento. Io però vorrei anche parlare di questo bel video, che io ritengo sia delicato, curato, elegante. Come è stato ideato, Maria Laura? Guarda, molto, molto semplicemente. Non ha una trama particolare questo video. Semplicemente, come dici tu, abbiamo pensato di creare delle immagini che fossero in qualche modo eleganti e rappresentative di quello che è tutto il mio progetto musicale, perché tu sai che comunque da qualche tempo ormai sto lavorando ad un album che spero prima o poi possa uscire, possa vederlo realizzato. Nella semplicità, però con un messaggio chiaro, ho voluto girare qualche scena con il mio fidanzato Marco, che alla fine del video mi scioglie la treccia, sì. Ed è un messaggio come per dire: sciogliamo le nostre trecce solo per chi veramente merita, per chi ci ama. Allora io direi di ascoltarci Le trecce di Lolita e poi ritorniamo ancora con te, Maria Laura. Fantastico. Per la prima volta nel giardino dell'errore, mentre mi cavi spensierata in mezzo ai gigli di tua madre, non perse tempo di abusare con una banale scusa di quel tuo corpo smunto e dritto come lo stelo di una rosa. Al sole i tuoi capelli che catturano i riflessi e il colore dei melograni rosso chiaro, e tu ti sfili dalla bocca l'apparecchio per i denti e poi vuoi far l'amore. Lolita, Lolita, dolce piccola e muy bonita. Lolita, Lolita, una smorfia, un capriccio, un lamento in cui avvi il tormento di quei giorni amari. Lolita, Lolita, desperado por esta chica. Chi se puoi gioca e sogna, se vuoi danza e muoviti, ma le tue trecce non sciogliere per nessuno. fammi piangere, dai lasciami dormire. Lolita zitta, non strillare, insospettisci il vicinato. Su dai da brava, già conosci qual è la tua punizione. Di schiaffeggiarti e di tenerti a cosce aperte per due ore. Un padre che parla così ti logora le carni e resta lì mentre sfiorisce il viso tuo. Non può pretendere di fare storia né poesia, deve solo pagare. Lolita, Lolita, dolce, piccola e muy bonita. Lolita, Lolita, una smorfia, un capriccio, un lamento in cui abbia il tormento di quei giorni amari. Lolita, Lolita, desperado por esta chica. Su, chiudi gli occhi se puoi, gioca e sogna se vuoi, danza e muoviti, ma le tue trecce non sciogliere per nessuno. Se vuoi danza e muoviti, ma le tue trecce non sciogliere per nessuno. Se vuoi danza e muoviti, ma le tue trecce non sciogliere per nessuno. Non sciogliere per nessuno. Non sciogliere per nessuno. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24. Con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Allora, ritorniamo in diretta con Maria Laura. Prima volevo chiederti una cosa riguardo al tuo album. Sì. Questa canzone farà appunto parte di un album che verrà pubblicato quando, grosso modo? Ma di tempistiche non me la sento di parlare, io parlo sempre quando sono sicura. Ci stiamo comunque lavorando, ecco, stiamo lavorando sodo e soprattutto con tanto entusiasmo. E nulla di questo sarebbe possibile senza il supporto artistico ma anche morale del mio produttore Yari Monani. Certo. Questo album, che poi ha una storia un po' particolare, no? Perché questo album, sì, in pratica già c'era, esisteva già, soltanto che era stato fermo per 10 lunghi anni lì su questo cassetto, no? E poi a un certo, sì, punto qualcuno ha pensato di ridargli un po' di calore a queste note. E appunto è intervenuto Yarin Munari, una persona che per te è importantissima. Ha aperto questo cassetto e ha detto: basta, adesso è ora di lanciare le tue canzoni. Sì, fondamentalmente l'abbiamo fatto, Gilles, perché ci crediamo. Ci crediamo e ci siamo accorti molto presuntuosamente che abbiamo fatto dei pezzi che, sebbene scritti 9-10 anni fa, hanno ancora una modernità che sorprende. Confermo. E l'abbiamo fatto perché... Grazie, grazie di cuore. L'abbiamo fatto perché ci crediamo, e il momento di silenzio è un momento che mi è servito a livello personale. A volte c'è bisogno di staccarsi un po' dalle cose per capire quanto veramente le amiamo. E dimmi una cosa, e com'è venuto l'incontro con Yarin? L'incontro con Yarin è venuto molti, molti anni fa. Avevamo un amico in comune, un musicista, Alessandro, che saluto se ci sta ascoltando. Ed è stata subito, insomma, una stima reciproca, ecco. E mi sono fidata di lui assolutamente dal primo giorno, nel suo modo di fare, così diretto, così schietto e allo stesso tempo molto dolce. E mi sono accorta che dietro questa persona umana con così tanta sensibilità c'era veramente un artista, un batterista, un arrangiatore pazzesco. Perché Yarin Munari vanta importanti collaborazioni, ricordiamolo magari per qualcuno che ancora non lo conosce, ha collaborato con gli Stadio, Vecchioni, Alexia, Paolo Belli, Vallesi, Morgan, Antonella Ruggero, Battiato, tra l'altro sarà anche un onore per me, perché presto, non so se lo sai, Maria Laura, lo avrò come ospite qui in studio a Radio Cooperativa. Molto bene, molto bene. Il tuo primo disco però risale a 18 anni, ho queste informazioni, è corretto, Maria Laura? No, avevo fatto un disco precedente, ma lo chiamo più un esperimento, ecco, che ero proprio giovane. Le produzioni serie, diciamo, sono nate appunto dalla collaborazione con Yari Munari. Certo, quindi è stata un tuo primo approccio, un tuo primo esperimento. Esatto, esatto, proprio sperimentazione. Allora, io racconto una cosa, Maria Laura, perché sì. Maria Laura mi è stata presentata, io ho ascoltato il suo inedito, ho detto bellissimo, sicuramente da proporre, e poi come è mia abitudine vado un po' a cercare, vedere cosa ha fatto l'artista che mi viene proposto. Ma poi cercando tra le sue canzoni ne ho scoperto di nuove, meravigliose. Ho detto no, cioè una canzone non basta, devo contribuire a far conoscere questa voce del Veneto. E così ho chiamato Maria Laura e ho detto guarda, dobbiamo fare ascoltare qualcos'altro. Tra queste canzoni ne ho scelte qualcuna quella che vorrei proporre adesso si chiama Riccardo. Vuoi parlarci okay. di questa canzone, Maria Laura? Ma guarda, ti dirò in maniera un po' più generale che tutte le mie canzoni hanno dei contenuti di ispirazione femminile. E quindi, insomma, in ogni canzone da me scritta c'è una donna, c'è una figura di donna. E sono tutte quelle vite di tante Maria Laura, no? Tutte le vite che Maria Laura vorrebbe fare, avrebbe voluto fare, ha fatto, ha sognato. E quindi anche se in questo pezzo che si chiama Riccardo, quindi il nome di un uomo, dietro c'è una ragazza giovane innamorata. È bellissima, cioè anche tutte le altre canzoni che faremo ascoltare, almeno personalmente le ritengo bellissime, perché hai anche una voce che ha una sua originalità. Allora, grazie. Ascoltiamoci quindi il secondo brano di Maria Laura in scaletta di questa sera, dal titolo Riccardo. Riccardo, gli occhi neri, spalle larghe, ingenuità. Lui parla a voce bassa, ride poco e brilla già. Quando è giacca elegante, al portamento un po' da grande. Ma Riccardo è giovane, più giovane di me. Riccardo è alto e forte, all'andatura prepotente. Ti guarda indifferente o col sorriso accattivante. Riccardo ha grandi mani, grande la sua timidezza. Lo ripenso in nuova nostalgia, rivedo che Riccardo ha fra i capelli in grano, qualche spina scende, copre la sua fronte, la sua pelle splende, da un grano sguardo ancor di più. Oh, yeah. Riccardo, non è facile difendermi e sorriderti. Respiro e tocco il vero che c'è, memorie perle nere sparse via. Sparse dietro me. Riccardo è un po' scurrile, mezzi termini non ha, e fuma un po' troppo, beve, sbaglia e lui lo sa. Mi bacia e stringe un giorno e quello dopo non lo fa. Lui vive ciò che ama e lo fa in piena sobrietà. Riccardo ama la musica e ascolta i Duran Duran. spirito puerile esprime in tutta libertà. Assume un'aria seria quando suona per davvero. Dietro me. Rock Wave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Parliamo della tua disabilità, no? Perché sì, questa tua disabilità non ti ha impedito comunque di svolgere le tue grandi passioni, appunto la politica e la musica. Ma tu hai la SMA, giusto? L'atrofia sì, muscolare spinale. Esatto, sì. Mi piace parlare della disabilità come giusto che sia, di una semplice condizione, no? Ogni persona vive una condizione. Sai, a volte ci si scontra un po' con persone che hanno un'idea fondamentalmente sbagliata della disabilità, quindi disabilità uguale vita triste, sì. Disabilità uguale malattia, no? Si tende un pochettino a, per quanto riguarda il senso generale comune. E mi piace insomma spiegare questa cosa come una semplice condizione. Io penso che siamo tutti pieni di limiti, pieni di limitazioni e pieni di barriere da superare. Certo. Semplicemente alcune sono più visibili e alcune meno visibili, ecco, diciamo così. Questo te lo chiedo perché? Perché tu hai affrontato anche un argomento molto molto interessante che poi ha avuto un grande successo dal punto di vista mediatico sul tema della disabilità. Perché nel 2017 hai partecipato a un calendario fotografico per una campagna di sensibilizzazione speciale. Sì. Vuoi parlarne tu, Maria Laura? Sì, certamente, volentieri. Ti dico, ho aderito a questo progetto partito nel 2016, un progetto artistico, fotografico, nato dall'idea di una fotografa milanese, Micaela Giuliani, in collaborazione con una blogger e giornalista e modella di tutto direi del progetto, Valentina Tomirotti. Si tratta appunto di un progetto che vede ragazze con disabilità che posano per foto sexy, certo, per foto sensuali, in posizioni sensuali, senza mai scadere nella volgarità. Si tratta appunto di un progetto boudoir di cui sicuramente Micaela Giuliani saprebbe parlarti meglio di me. Comunque fondamentalmente la fotografia boudoir prevede che una donna venga ritratta in posizioni, in scene romantiche, ecco, sì, in scene romantiche sicuramente sensuali, sicuramente molto intime, ma senza scadere nell'erotismo, ecco, del nudo integrale, ecco, del nudo che magari siamo più abituati a vedere. E l'ho fatto perché ci tenevo particolarmente a sdoganare un po' queste tematiche, questi tabù che, come ritorno al discorso di prima, si associa spesso disabilità a ragazza triste, ragazza poco attraente. Ecco, questo non è vero, perché anche una ragazza con disabilità che magari si ritrova ad avere un corpo forse un po' compromesso, più o meno compromesso da questa collezione di disabilità, ma che allo stesso modo può esprimere sensualità e femminilità. Ed è stata una cosa bellissima, perché questa campagna ha riscosso un notevole interesse, andando addirittura sui più famosi quotidiani e giornali come Il Fatto Quotidiano, Elle, Vanity Fair, 7, poi è andato anche su Rai 2, vincendo anche un premio come campagna di Web Marketing Festival e anche partecipando alla manifestazione Sessualità e Disabilità alla Triennale di Milano. Quindi ha fatto è stata una bellissima idea ed ha avuto un gran successo. È stato un progetto chiacchierato, diciamo che ha forse un po' smosso le coscienze delle persone che non si aspettavano una cosa del genere, anche se a mio parere è una delle cose più naturali che si possano vedere. Non so se hai visto qualche scatto, comunque, certo, insomma, certo. Niente di così eclatante. No, assolutamente, l'ho visto, ho guardato un po' tutte le foto e veramente intanto si vede sicuramente la mano di una professionista, perché le foto sono veramente molto belle, sono veramente molto belle. Maria Laura, allora rientriamo un po' su quello che è la musica, questa musica, sì, che è rientrata, ammesso che ne fosse uscita, perché bene o male ha sempre fatto poi parte della tua vita, è rientrata prepotentemente nella tua vita, e che cosa ti ha dato fino ad oggi la musica? Allora, ti dico la verità, con la musica io ho sempre avuto un rapporto molto forte e allo stesso tempo molto conflittuale. Perché? Perché la musica è quello strumento attraverso il quale io sono quasi obbligata a mettermi a nudo, ecco, è proprio lo strumento attraverso il quale io racconto me stessa, la mia parte più intima, più emotiva, e quindi molto spesso tu capirai che mi mette veramente in crisi, mentre la mia passione per la politica sfrutto di più quella che è la mia parte intellettuale, anche emotiva, per carità, per certi temi sicuramente, però ecco, la musica sono io, e quindi mi amo, mi odio, e litigo con me stessa, poi mi ritrovo, poi mi voglio bene. Comunque sì, mi ha dato tanto, mi continuerà a dare, e anche io penso sia giunto il momento che debba dare anche io molto, molto a lei. Il prossimo brano che propongo è Passeggiatrice della Notte. Sì, il titolo un po' particolare, che forse lascia trapelare un certo tipo di messaggio. In realtà Passeggiatrice della Notte è una ragazza che non si dà, ecco, una ragazza che seppur innamorata rimane un po' in quello che è l'ambito della sua innocenza, perché magari vorrebbe ma non è il momento, ecco. E è sempre una canzone legata comunque a un periodo della mia vita abbastanza lontano, però ecco, anche lì, come ti dicevo, no, racconta le storie, anche qui racconta la storia di una donna, di una piccola donna. Bene, allora ascoltiamoci la voce di Maria Laura Tessarin con Passeggiatrice della Notte. Passeggiatrice della notte, il dopo barba fresco sul tuo viso e poco dopo anche sul mio, mi cospargevi sulle cote e sulle labbra mie, sentivo il gusto amaro che tu hai, ma qualche volta ti fermavo e mi guardavi con quegli occhi inappagati, scuri e spenti, scusa. Thank you. questo. E c'è che a volte mi ferisce questa tua immaturità. E c'è che mi deluderei di questa veste così candida e leggera. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Maria Laura, allora ormai quindi sei prossima alla pubblicazione dell'album, no? Allora tu sei una cantautrice, sicuramente ci saranno, come abbiamo già parlato, dei contenuti importanti. Quali saranno esattamente questi contenuti? Ma come ti dicevo prima, io amo raccontare le donne e scrivere per le donne, in quanto insomma donna che vuole comunicare e lanciare dei messaggi. Diciamo che in questo frangente si interseca, no, la mia passione per la musica con quella della politica. Io credo che la musica sia uno strumento veramente efficace per poter veicolare dei messaggi. Quindi insomma la tematica principale sarà sicuramente il parlare alle donne. Non mancherà sicuramente un accento sui diritti civili. Tu sai, insomma, come ti dicevo prima, che mi occupo, diciamo, politicamente, amministrativamente, di quelle che sono un po' le categorie, purtroppo ancora al giorno d'oggi, più fragili, quindi insomma le donne, ma anche gli anziani, i giovani, le persone anche le persone con disabilità. Appunto, tra i messaggi che voglio dare c'è sicuramente un messaggio di libertà che spetta a tutte le persone di questo mondo, anche alle persone con disabilità, e questo lo dico forte e chiaro proprio per sensibilizzare i nostri governanti, che forse non hanno ben capito che la libertà è di tutti. Io sono impegnata a favore del diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità, che è una filosofia di vita che permette alla persona con disabilità di poter usufruire di fondi da parte dello Stato per poter pagarsi un assistente personale. A cosa serve un assistente personale? Serve a poter fare la vita quotidiana di tutti i giorni, quindi alzarsi dal letto, pettinarsi, prendere la macchina, andare al lavoro o studiare. E questa è una cosa che secondo me non è ancora molto ben chiara, almeno in Italia, caro Gilles. Quindi, certo, insomma, non mancheranno sicuramente riferimento a questa filosofia di vita, che per me è una battaglia per me stessa e per tutte le persone con disabilità, che hanno il diritto a vivere la propria vita in piena autodeterminazione e autonomia. Ecco, questo mi fa piacere che tu lo abbia detto, Maria Laura, perché è anche lo scopo di questa trasmissione, perché le mie interviste riguardano la musica, ma anche quello che sono gli altri argomenti, ad esempio quello che hai parlato tu adesso, e mi ha fatto un grandissimo piacere. Anzi, è un invito che faccio a tutti: se avete qualche argomento di cui ritenete che sia interessante da proporre, che magari esce anche un po' dalla musica, noi siamo qui aperti a fare anche interviste di questo tipo. Quindi, Maria Laura, io ti ringrazio di avere parlato di questo argomento sulla disabilità, perché veramente è molto molto importante quello che tu hai detto adesso. Grazie mille a te, Gilles, per questa grande opportunità. E a proposito, visto che parliamo delle tue canzoni, del tuo impegno sociale, posso dire che le tue sono canzoni d'autore, no, Maria Laura? Sì, sì. Ecco, e oggi non è facile farlo, ma io credo, dopo aver ascoltato queste tue canzoni, che con queste sonorità che Yari ha creato, mi sembra tutto più facile. Un violino, contrabbasso, fisarmonica, un po' di batteria e chitarra acustica e una voce d'incanto sono il menù per aver creato queste belle canzoni nella massima semplicità. Questo è il pensiero che a me è venuto quando ho ascoltato queste tue canzoni. Mi fa piacere, fa veramente piacere. Dopo questo album tutto si fermerà ancora una volta, o potremo ascoltare ancora nuove proposte da questa splendida voce e averti nuovamente come ospite, e chissà mai, questa volta magari sarò io che verrò da te, Maria Laura. Guarda, sono già prenotata, ti dico, mi sono trovata molto bene a fare questa interessantissima chiacchierata con te. Dico, il progetto sicuramente non deve fermarsi, anche perché quando si ferma una macchina, Gilles, è molto difficile poi farla ripartire. E quindi, insomma, la volontà è quella sicuramente di proseguire, anche perché, insomma, ci sono dei messaggi importanti da dare, da veicolare, e anche da educare, perché è una società che comunque va educata sotto certi temi particolari legati appunto a persone con disabilità, o comunque persone che rappresentano purtroppo una categoria fragile. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo è veramente così. Io mi organizzerò, quando uscirà questo tuo album chiederò a Yarin una collaborazione in qualche maniera. Vengo lì e parleremo di musica e rientreremo ancora su questo argomento, e dedichiamo uno spazio per parlare, per darti la parola e parlare anche di queste della disabilità, che è un argomento importante che riguarda proprio la società. Grazie di cuore. Allora, c'è un'ultima canzone, Maria Laura, che tengo a fare ascoltare. Sì. Ed è una cover bellissima di un cantautore che anch'io ho amato. Lui si chiama Fabrizio De André e la canzone è Via del Campo, che non potete non ascoltarla con attenzione, perché è veramente molto molto bella. Perché hai voluto omaggiare Fabrizio con questa canzone? Perché Fabrizio è un maestro, è uno dei miei padri artistici. Chi sceglie di fare musica, chi sceglie di fare il cantautore, non può assolutamente esimersi dall'ascoltare le canzoni di Fabrizio De André. In particolare mi piace questa canzone, ho pensato di fare la cover di questa canzone perché, ritornando ancora ai discorsi di prima, anche qui si parla di una donna. Certo. Si parla di una donna emarginata socialmente, per il fatto che comunque era una donna costretta a prostituirsi, ma Fabrizio ha quella modernità di associare questa donna ad un diamante, no? Proprio nella sua frase finale. E era un pezzo che veramente mi toccava veramente le corde del cuore. Con molta umiltà ci siamo messi giù io e Yarin, ed è venuto un po' tutto abbastanza in modo naturale. Se tu ci fai caso, ci siamo permessi di fare una piccola modifica anche alla linea melodica, oltre che agli arrangiamenti, e è un po', diciamo così, suona forse un po' insolito, però abbiamo voluto osare. Diciamo che in giro è abbastanza piaciuta, a noi sicuramente. E qui trovi solo una conferma, perché se la mandiamo in onda vuol dire che è solo una conferma che è una cover fatta bene, sia dal punto di vista degli arrangiamenti, sia dal punto di vista vocale. Grazie. C'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo gli alprimi. Ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salire le scale fino a quando il balcone ha chiuso. Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Radio Cooperativa. Allora, siamo verso la chiusura. Allora io direi di fare così, Maria Laura. Vorrei lasciarti un minuto per dire quello che vuoi alle donne in ascolto, visto che è un argomento che a te interessa tanto. Ma anche qualcosa di cui magari non abbiamo parlato. Quello che ti va, di ringraziare qualcuno se ne senti il bisogno. Un minuto per te, Maria Laura. Grazie, Gil. Intanto ringrazio te per questa bellissima opportunità e ti rinnovo la mia disponibilità a fare altre chiacchierate. Ecco, ci tengo a ringraziare una persona che è sempre al mio fianco, che mi accompagna ovunque e lo fa quasi con la mia stessa passione, pur non essendo musicista. Ringrazio in tutto cuore il mio fidanzato Marco, perché senza di lui veramente niente di tutto questo sarebbe possibile, senza la sua carica, senza il suo appoggio. Ti dico, ha quasi la mia stessa passione, ecco, proprio essendo musicista. Ecco, approfitto allora per salutare Marco, chissà che sia un'occasione, magari quando verrò lì a Porto Viro a farti questa intervista, di conoscere anche il tuo compagno. Volentieri. Voglio anche ringraziare, tu mi permetterai di ringraziare Yari Munari, che appunto dicevo prima che avrò presto come l'onore veramente di averlo ospite qui in studio. E lo ringrazio per la collaborazione e per avermi proposto una cantante come te, Maria Laura. Grazie Gile, sei carinissimo.